triste cuore, non domandare perché. C'è un mistero che non so dire, che non si può svelare. Tu sei la dolce realtà dei sogni miei d'un dì. Forse noi viviamo ancora il sogno di piacere che ci avvolge.